Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Le donne sono più attraenti degli uomini. Non è una questione di gusti, cari amici, ma di contrasti. La parola alla ricerca. I ricercatori americani del Gettysburg College in Pennsylvania hanno infatti scoperto che esiste una ragione scientifica per cui le donne sono più attraenti degli uomini. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Perception. La pelle del viso femminile è infatti più sottile e chiara di quella dell'epidermide degli uomini. Questa differenza non è stata riscontrata però nella zona delle labbra e degli occhi. Ed è proprio nell'intensità del contrasto che risiede il segreto della bellezza delle donne. Via libera al make-up. Scurendo occhi e labbra con i cosmetici, senza intervenire sul resto della pelle del viso, spiega Russell, si aumenta il contrasto facciale. La femminilità e l'attrattività sono altamente correlate. Per le signore, quindi, rossetti, eyeliner e ombretti, se usati sapientemente, servono a sottolineare il dono di natura. Qui in studio con me a parlare di trucchi, della bellezza del trucco e anche della necessità che tanti di noi avvertono al mattino prima di uscire di truccarsi, parliamo oggi con la dottoressa Riccarda Serri, la nostra dermatologa per amica e soprattutto presidente di Skineco. Buongiorno dottoressa Serri. Buongiorno a Nicoletta e buongiorno a tutti. Per le signore, citava la ricerca, rossetti, eyeliner e ombretti, se usati sapientemente, servono a sottolineare il dono di natura. Il trucco per esaltare la bellezza. Certamente, per esaltare la bellezza e anche per sentirsi più a posto. Infatti a me non piace tanto chiamarlo trucco, mi piace più il termine inglese make-up. Fatti su, cioè ti aiuta a essere quello che vuoi essere. E il trucco ha delle valenze veramente importanti, non solamente per la cura della pelle, la protezione della pelle, per esempio dai raggi ultravioletti. Un buon fondotinta, una buona cipria, una buona crema colorata contengono dei pigmenti naturali e delle minerali naturali micronizzati tipo ossido di zinco e altri minerali come il biossido di titanio, che hanno un'azione protettiva della pelle, ma hanno proprio questa azione di aiutare la persona a sentirsi più a suo agio con se stessa. È molto importante oggi soprattutto che le donne, ma anche gli uomini, abbiano una buona percezione di sé. E il trucco aiuta in questo, ti fa iniziare meglio la giornata e passare meglio la giornata. Per non dire che non fa affatto male alla pelle un trucco ben scelto, aiuta a coprire difetti che magari possono essere invalidanti, infatti poi magari ne parleremo, e aiuta addirittura a curare determinate malattie della pelle o perlomeno a co-curare, aiuta a accelerare la guarigione. Quindi usato per esaltare, restituire armonia e bellezza, il make-up, come lei ama chiamarlo, giustamente, perché ha un significato più ampio del trucco. Mi sa di mascheratura. Sì. Il trucco non deve mascherare, deve veramente integrare, abbellire, armonizzare. Ecco, si usano i prodotti cosmetici, non potevo più dire ci si trucca, ma anche perché si vuole stare bene con se stessi. E dalla sua esperienza clinica, dottoressa Serri, sì, lei sa che il poter contare su dei prodotti che noi dobbiamo imparare a scegliere, in questa trasmissione lo faremo, può anche aiutarci a gestire, metabolizzare anche situazioni che magari sono segnate sulla nostra pelle e che ci danno disagio. Sì. C'è un ramo del trucco, del make-up, che si chiama camouflage, che serve proprio per coprire i difetti maggiori. Questo è un tipo di make-up che può addirittura permettere di vivere e salvare la vita. Io ricordo, ero una giovane specializzanda in clinica dermatologica in Via Pace a Milano. Un giorno una signora mi si è avvicinata, aveva tutto il viso, aveva una dermatosi particolare e aveva tutto il viso con delle chiazze arrossate. Mi si è avvicinata e mi ha detto: dottoressa, mi dia una mano lei, mi aiuti, mi consigli un qualche cosa, una crema colorata, qualcosa che mi copra queste macchie, perché io faccio la cuoca in una mensa e mi vogliono licenziare se vedono queste macchie. Ho chiesto consiglio ai suoi colleghi e nessuno mi ha dato retta. E lì io ho capito che addirittura per questa signora avere un fondotinta, una copertura adatta per le sue macchie, non solo le permetteva di vivere, ma le permetteva di lavorare, le stava venendo con la sua dermatosi, quello che noi dermatologi chiamiamo il complesso del lebbroso, cioè ti fanno sentire un paria se hai delle macchie e allora le devi coprire. E poi c'è un altro episodio che mi ha veramente segnato, è sempre legato ai miei inizi di giovane dermatologa. C'era questa ragazzina con una voglia di vino, un angioma piano molto esteso che le copriva mezzo volto. Questa ragazzina era un'adolescente, immaginatevi essere adolescenti con proprio una voglia di vino che ti copre mezzo volto. La mamma era di fuori Milano, veniva da un'altra regione, la mamma l'accompagnava a fare delle sedute di laser, erano i primi laser ai tempi. Ma le faceva male, allora è venuta da me e mi ha detto: ma qui il laser mi fa male, non so cosa fare. Lungo discorso per spiegarle. Perché voi dermatologi siete anche psicologi, maneggiando quello strato di confine tra noi sì, e l'esterno, dobbiamo, che è la pelle, questo organo eccezionale. La pelle poi parla e ti trasmette, con la pelle puoi anche parlare e comunicare. Comunque avevo convinto questa ragazza a coprirsi col camouflage, proprio sempre questa tecnica di trucco che esiste e che copre i difetti, esiste ed è assolutamente straordinario. Questa ragazza non solo ha fatto una copertura del suo difetto col camouflage, ma l'ho incontrata per caso anni dopo con un bellissimo ragazzo, mi è venuta incontro abbracciandomi e mi ha detto: dottoressa, grazie. Grazie, perché grazie a lei io ho fatto la scuola di camouflage, sono diventata io stessa una terapeuta, una maestra di camouflage, mi sono fidanzata con un ragazzo bellissimo, meraviglioso che, come mi aveva detto lei, ha scelto la mia anima e non la mia faccia. Insomma, mi viene sempre il magone sì, quando penso a sta cosa. Sì, è proprio che ci racconta quanto la pelle che noi portiamo, no? Addosso sì, ed esponiamo racconti di noi e può trasmetterle le nostre sicurezze, le nostre insicurezze. Esatto. E diventa uno specchio che tante volte, no, crea in noi sì, dei grandi complessi, ma può essere anche un'occasione per parlare sì, di noi e dire delle cose che forse a prima vista non riusciamo esatto, a comunicare. E poi facciamoci caso, se noi ci sentiamo più belle e più a posto, lo diventiamo. Provate a immaginarvi quando vi sentite brutte, vestite male, misere, con le spalle piegate, con questa faccia un po' triste. Diventate più brutte. Mentre se vi sentite belle, dite: come sto bene, come indosso un indumento che mi piace, che mi sta bene, un trucco che mi esalta, eccetera, eccetera. Diventiamo comunque, oltre alla valenza make-up, ci comportiamo da persone più attraenti e diventiamo più attraenti. Quindi il rapporto con la percezione che noi abbiamo di noi stessi è fondamentale per trasmettere agli altri un senso proprio di gradevolezza molto maggiore. E poi, dottoressa Serri, non da dermatologa ma da donna, guardiamo le donne quando si truccano. Ci sono delle donne che puntano molto sullo sguardo e quindi amano magari sottolineare l'intensità dello sguardo usando l'eyeliner oppure questi mascara che infoltiscono le ciglia e danno profondità. Ci sono invece donne che puntano sulla bocca, questi rossi che sono, no, labbra ben disegnate, altre invece che puntano più sull'effetto naturale acqua e sapone, che può essere ottenuto anche con il make-up e che è il make-up più difficile sì, proprio perché c'è ma non si vede. Ecco, già in questa distinzione noi possiamo raccontare tanti tipi di donne diversi. Certamente, certamente. In effetti possiamo per esempio raccontare che la donna che usa il trucco come un mascherone, occhi, bocca, pomelli troppo arrossati, unghie lunghe, è una donna molto insicura, che non si piace, che ha bisogno proprio di truccarsi, mentre la persona che esalta lo sguardo dà più, certamente più importanza ai suoi occhi, eccetera. Chi esalta la bocca lo fa non solo perché magari ha un bel sorriso, una bella bocca e la vuole esaltare, ma perché è magari più sensuale, esprime così la sua sensualità. Le labbra infatti sono sinonimo di seduzione e femminilità, ma io sì, penso anche agli occhi. Quando guarda un uomo, guarda più gli occhi o guarda più il sorriso? Prima gli occhi e poi il sorriso, ma il sorriso subito dopo, a breve distanza, perché un uomo che non sorride non potrebbe mai conquistarmi. Non potrebbe mai conquistarmi. E lei? È vero. No, ma io guardo l'insieme, devo dire, guardo lo sguardo e guardo il sorriso. E lo sguardo ti dice se il sorriso è vero. Ecco, per esempio, un trucco che accentui lo sguardo, nel senso che lo renda più intenso, è un trucco ben riuscito. E oggi comunque anche gli uomini si truccano. Anche gli uomini si truccano, anche gli uomini hanno scoperto, o meglio riscoperta, l'arte del trucco, che però, come sappiamo, è un'arte antica, che in origine non era declinata solo al femminile, poiché il suo scopo non era quello di esaltare la bellezza, ma di sottolineare un'appartenenza a un'identità. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta a Milano. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, l'antropologia ci insegna che il truccarsi, fin dagli albori, nasce non solo come funzione di abbellimento dell'immagine corporea, ma che ha a che fare anche con il concetto di identità. Esattamente, proprio così. L'identità, l'appartenenza culturale alle nostre origini, alle etnie, alle razze. Si pensi, solo per citare alcuni esempi, ai nativi americani, ai loro tipici costumi e colori che per certi versi sanciscono proprio l'appartenenza a una determinata tribù, ma anche mi vengono in mente le donne indiane che una volta sposate sono solite marcarsi la fronte per comunicare al mondo il loro nuovo status nella società. Sì. Sono tutte delle forme queste per comunicare in maniera anche forte la propria differenziazione rispetto agli altri, quindi mettere in primo piano quella che è la propria identità. E questo è un significato che, se vogliamo, è rimasto in parte intatto anche ai nostri giorni, sebbene un po' trasposto in quello che è il nostro modo di vivere la società. Pensiamo ad esempio ai ragazzi e come questi tendono ad aderire a identità veicolate da gruppi di moda, ad esempio gli emo. Oggi si parla molto degli emo, che si truccano e si vestono proprio seguendo alcune regole, perché sono queste che permettono loro di sentirsi parte di determinati gruppi. Prima c'erano i punk, i metallari e così via, e oggi le generazioni che ci sono oggi seguono altre regole, e quelle che verranno ne seguiranno ancora di nuove. Dottor Mazzucchelli, ma torniamo alla quotidianità. Adesso anche gli uomini stanno riscoprendo l'arte del make-up. È indubbiamente vero, io credo che questo sia dovuto in parte sempre al bisogno un po' di presentarsi in maniera più piacevole, quindi se vogliamo questo potrebbe avere un'origine anche dovuta a un'insicurezza di fondo presente negli uomini. È un meccanismo ancora molto strano, ancora poco frequente, ma come dicevate prima sempre in maggior aumento quello degli uomini che si curano. Da un certo punto di vista credo che sia importante prendersi cura di se stessi, anzi ci sono molte patologie tipo la depressione o anche delle strutture un po' ossessive di personalità che tendono molto a non curarsi per nulla, quindi gli estremi del quindi non lavarsi. Il prendersi cura di sé è un messaggio assolutamente positivo, che è sinonimo di benessere. Ma dottoressa Seri, vorrei avere il suo parere riguardo al trucco al maschile. Il make-up maschile si basa su dei prodotti molto differenti rispetto a quelli utilizzati per le donne. Insomma, il nostro lui non può rubarci il fondotinta. Cominciamo col primo make-up che chiedono anche molto spesso oggi i ragazzi, che è il correttore. Sì. Cioè non solo le ragazze, ma anche i ragazzi hanno i brufoli, poverini, e anche loro vogliono mascherare certe chiazze arrossate. In genere il trucco maschile è caratterizzato dal non essere con luccichini, sberluccichini, certo. È più opaco e più trasparente. E certamente molti ragazzi, per esempio, ricorrono all'autoabbronzante. L'autoabbronzante non so se si possa chiamare un make-up o che cosa, comunque è una crema che in maniera molto sicura tinge la pelle e la rende abbronzata. Certamente è meglio l'autoabbronzante che non farsi le lampade per togliersi quel colorito pallido che viene soprattutto a chi vive nelle grandi città e che studia. Molti ragazzi hanno le occhiaie. Questa è una caratteristica di quasi tutti gli studenti delle grandi città, le occhiaie. Vogliono coprirle anche loro col correttore. Ora io non sono qui a giudicare se è giusto o sbagliato, perché secondo me ognuno deve liberamente fare quello che lo mette, lo fa sentire meglio e più a suo agio. Già è difficile avere un'età tra i 13 e i 19 anni, cioè essere teenagers, adolescenti. cerchiamo di aiutarci come possiamo, e se ti senti più a tuo agio anche tu con un po' di correttore, un pochino di autoabbronzante eccetera, per non dire che molti ragazzi oggi si fanno colpi di sole, mesh, tinture dei capelli, oppure addirittura si tingono i capelli di blu, rosso, bordeaux. Anche questi sono dei trucchi, volendo. Quello che non mi piace, ma proprio questo mio gusto personale, sono i ragazzi con lo smalto alle unghie. O quello con le sopracciglia depilate, un po', no? No, beh, disegnate. Quello, se hanno proprio le sopracciglia boschetto. Dottor Mazzucchelli, non le chiedo delle sopracciglia, ma le chiedo una lettura psico di questo fenomeno. Gli uomini tendono a truccarsi e quindi a utilizzare dei prodotti che prima erano, almeno negli ultimi anni, solo considerati appartenenti e di gestione del pubblico femminile. C'è quasi un tentativo di un maschio sempre più femminilizzato? Sì, le regole indubbiamente della società nella quale siamo immersi cambiano, e anche questo fa parte un po' dei tempi che passano. Io non credo che ci sia qualche cosa di male a priori, come diceva la dottoressa, sono molto d'accordo su questo punto. Credo che se questa cosa ci fa sentire piacere, proprio il parametro da analizzare è quanto noi poi stiamo bene con noi stessi. Se questa cosa diventa troppo rigida, per cui il trucco all'inizio si usa per controllare la propria immagine, sì. Se poi a un certo punto si sfora nella parte in cui noi siamo dipendenti dal trucco, cioè è il trucco che diventa a controllare noi, non so come dire, si passa nell'estremo più della rigidità, e allora lì forse è il caso di porsi più qualche domanda, uomini o donne. O donne. Dottor Mazzucchelli, prima di salutare dalla linea ai mercati, ci sono delle donne che non escono senza trucco, diventano in qualche modo schiave del trucco, perché il mostrarsi anche delle persone amiche ma con il viso acqua e sapone per loro diventa una cosa troppo intima. Sì, io credo che il trucco vada bene e che sia giusto anche indossare per certi versi una maschera, un po' come diceva Pirandello, ogni tanto non fa male a nessuno. Se la maschera inizia a diventare un cerone pesante, senza il quale non riusciamo a mostrarci per quello che siamo in serenità, vuol dire che evidentemente è il caso forse di porsi alcune domande per capire perché non possiamo essere a nostro agio in quelli che sono i nostri panni naturali. Essere e benessere. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. E siamo tornati insieme oggi, una puntata dedicata al make-up, insieme alla dottoressa Riccarda Serri. Cerchiamo di capire come l'utilizzo di prodotti dermocompatibili, rispettosi quindi del benessere della nostra pelle, ci aiutino anche a stare bene, ad avere una migliore percezione di noi stessi, quindi esaltare anche la bellezza, i nostri punti di luce, ma in qualche modo ci diano una certa sicurezza. Questo non significa, dottoressa Serri, che tutte le donne, tutti gli uomini devono truccarsi, ma chi ama farlo può farlo, ma scegliendo il prodotto giusto. E noi cerchiamo di farlo oggi con lei, che è un po' la nostra guida. Innanzitutto, è sempre necessario mettere la crema sotto, di base? Bisogna mettere alla mattina, dopo essersi lavati il viso ed eventualmente aver passato un tonico, bisogna mettere un prodotto adatto al proprio tipo di pelle. Per esempio un siero se si ha la pelle più grassa, una crema più idratante se la pelle è più secca, o un'emulsione più leggera se la pelle è mista. Bisogna prima quindi scegliere un siero o una crema o un'emulsione adatta al proprio tipo di pelle, e sopra si può applicare o il fondotinta o il fondotinta compatto o la cipria o il mineral makeup. Si possono applicare scegliendoli possibilmente di un tipo dermoaffine non occlusivo, come spiegavo. Lo leggiamo nell'etichetta. Lo leggiamo nell'etichetta. Non dobbiamo avere one. Non dobbiamo avere, soprattutto nelle prime posizioni, ecco, diciamo, sì. Quindi in alto nella lista degli ingredienti è meglio che non ci sia paraffina ed è meglio che non ci siano i siliconi, i cosiddetti oni. È meglio che siano semmai nella seconda parte della formula, quindi prodotti che lascino respirare la pelle e che rispettino comunque il microambiente cutaneo. Non fa male mettersi un fondotinta, una crema colorata, senza aver prima messo una crema di base, se lo si fa una volta ogni tanto. Però è meglio mettere prima un prodotto riequilibrante in senso lato, adatto al proprio tipo di pelle. In crema, in polvere oppure in compatto, compatto come piace. Come piace, questi sono più consigli, diciamo, da truccatore. Io quello che posso dire da donna di una certa età è che mano a mano che si va avanti con gli anni, per evitare di l'effetto accentuare mascherone e poi di avere un trucco che accentui le rughe, bisogna usare dei trucchi più leggeri. Paradossalmente, più passano gli anni, più il trucco deve essere leggero, impalpabile, quasi invisibile. Ciprioso. Ciprioso, ma neanche troppo ciprioso, perché anche troppa cipria non va bene. Deve essere proprio un tocco limitato. E qui un truccatore certamente, certo, potrebbe spiegare meglio. Ma noi l'importante non è sapere che non fa male. Ma l'importante è altrettanto sapere, io vedo molte donne che dico: ah, io non mi sono mai truccata e sto benissimo. Ma fai bene, perché il trucco ti serve certamente perché ha delle funzioni utili anche come protettivo e in alcuni casi addirittura come salvavita se hai dei problemi, sì, che ti rendono impresentabile. Però serve a star bene con noi stessi, e se tu stai bene con te stesso senza trucco, non fai truccarti benissimo a non usare il trucco. Certo. Per chi invece volesse crema colorata o fondotinta, che differenza c'è tra questi due prodotti? Beh, direi il fondotinta innanzitutto è una sospensione, quindi non è un'emulsione. Ci sono delle polveri minerali, sì, pigmenti naturali che sono immersi e sospesi in maniera compatta o più fluida, a seconda delle tipologia, e servono proprio per fare una specie di, diciamo che un pochino più, più di copertura rispetto, sì, a una crema colorata. Una crema colorata è semplicemente una emulsione, normalmente una emulsione olio in acqua, quindi un'emulsione non molto grassa, con in emulsione presenti dei pigmenti. Quindi non è meno coprente, è meno coprente, ti dà l'idea della, esatto, più naturale. Però poi sono più differenze di forma che di sostanza. Dottoressa Serri, in molti prodotti, e parlo di fondotinta, parlo di rossetto, ombretto, c'è un po' in questi anni, notiamo che nelle pubblicità leggiamo questa ad alta, lunga tenuta. Ecco. Quella mi spaventa un po'. Questa lunga tenuta, che sicuramente a me, ad esempio, l'idea piace molto, perché penso mi trucco la mattina e fino alla sera sono perfetta. Vorrei sapere il suo parere da dermatologa. Da dermatologa dico che usati ogni tanto vanno benissimo, sì, una sera, un giorno che serve, non fanno male alla pelle. Nella loro continuità non sono il massimo, perché effettivamente provate a mettere una goccia di questi fondotinta a lunga tenuta sopra il lavabo, sì, e vedete la lunga tenuta, quindi non viene più via, bisogna usare un detergente molto forte per toglierlo, perché creano veramente questa specie di mappazzata sulla pelle che aderisce e, ripeto, usato al bisogno, saltuariamente, perfetto, usato nella sua continuità tutti i giorni, dalla mattina alla sera quando andiamo a dormire, poi mi trova perplessa. Dottoressa Serri, occhi e labbra sono i punti, no, strategici, sì, nel viso, lo sappiamo, gli occhi, lo sguardo comunica tante cose di noi, e anche comunque la bocca, una bocca ben disegnata, soprattutto alla sera, se uno soprattutto ha poi una bella bocca, manda dei messaggi, è molto seduttiva, le ricerche non sono, no, l'esperienza lo dimostra. Mascara, quindi, che allunga mascara le ciglia, le rende curve, attenzione. Ecco, il mascara, attenzione allo spazio, perché come dermatologa io devo stare attenta anche alla sicurezza, e lo spazzolino del mascara può diventare un ricettacolo di germi. Se non diventa un ricettacolo di germi, significa che ci sono troppi conservanti. Ogni 6 mesi il mascara va cambiato, per cui non bisogna avere 10 tipi di mascara, bisogna averne uno e circa ogni 6 mesi cambiarlo, perché se no sullo spazzolino ci sono troppi germi. La zona degli occhi è molto delicata, inoltre molte persone hanno dei problemi col mascara. perché può bruciare e dar fastidio. Meglio un mascara di buona qualità, assolutamente fondamentale, quando rigorosamente ipoallergenico. Dite, ecco, dite di buona qualità, lei ha aggiunto ipoallergenico e questo è un consiglio per le persone che hanno... Che provenga da un'azienda sicura, comprovata, che sia preso in un canale di vendita sicuro e non su internet, alle aste. Lo sa che in una vita una donna mangia 2 chili di rossetto. Sarà questo che fa venire la cellulite. 2 chili di rossetto. Quindi se dobbiamo mangiare 2 chili di rossetto, mangiamo quello buono. Ecco, che sia di buona qualità. Torniamo agli occhi. Il mascara ipoallergenico salvaguarda anche gli occhi. Le matite, mi raccomando, le matite e gli ombretti per gli occhi, cambiarli, lavare gli spazzolini o comunque i pennellini o le spugnettine con cui si usano gli ombretti, oppure rinnovarli. Non scambiatevi le matite per occhi. Non scambiarsi le matite, un appello anche alle mie figlie che me le prendono appello sempre ai figli, ecco. Qua vedo delle trousse certe volte aperte di persone che tengono in borsa, che hanno delle cose impresentabili, immonde, che vanno a mettere direttamente sulla loro pelle. Pulire anche le zone dove si tengono i cosmetici, pulire gli spazzolini, spuntare le matite e cambiare possibilmente ogni 6, massimo 8 mesi il mascara. Assolutamente. Prima di andare alle informazioni sul traffico, il rossetto. Dottoressa Serri, come si sceglie? La qualità, abbiamo visto, fa la differenza, perché ne mangiamo circa 2 kg nella nostra vita. Indicazioni per scegliere il rossetto, al di là del colore, e naturalmente questo Chiaramente, per le persone più giovani deve essere rigorosamente ecodermo compatibile, quindi senza troppi siliconi e senza troppi petrolati e con coloranti naturali. Io sono abbastanza fanatica di rossetti, ne ho una collezione incredibile, tutti dello stesso colore, cioè tutti color rosa, beige, carne, mi piacciono molto. E quelli di buona qualità direi che vanno bene tutti, ecco. Sai cosa c'è qui dentro? Forse. Vanessa. Il mio trucco. Secondo le regole di questa casa non è ammessa nessuna forma di trucco prima dei 15 anni. 15 anni? Ora si truccano tutte, i tempi sono cambiati. Non mi interessa. Mamma, ti rendi conto che tutte Vanessa. Le mie amiche già si truccano? Rebecca si colora tutta col consenso della mamma. Ma io non sono la madre di Rebecca. Se vuoi vivere secondo le sue regole, ok, vai a casa sua. Qui dentro invece non voglio vederti truccata, va bene? Mi sono spiegata? Il trucco divide e diventa occasione di litigio. In studio con noi Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, ciao e benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Le ragazze crescono e iniziano a truccarsi, le mamme non vogliono e le ragazze si truccano di nascosto, magari in ascensore. Le mamme rimangono spiazzate perché fino al mese prima o all'anno prima, quando le loro figliole si truccavano, giocavano proprio a facciamo come se io sono la mamma, e quindi le mamme di quel gioco lì erano molto onorate e anche molto divertite. Nell'ingresso in preadolescenza e in adolescenza invece il trucco è facciamo come se io non sono più la bambina della mia mamma, dove si allarmano gli adulti, quando quel trucco diventa una maschera che ti fa diventare qualcosa di completamente diverso da ciò che sei. Quindi potremmo dire alla mamma che da una parte si spaventano in modo assolutamente adeguato se quel trucco lì mette addosso alla figlia un'immagine che non le appartiene, dall'altra invece dovrebbero non allarmarsi troppo quando quel trucco lì è usato semplicemente per sottolineare 1 o 2 caratteristiche che sono proprio appropriate, che raccontano bene il viso delle loro figlie. Quindi per me la cosa migliore tra madre e figlia in un passaggio del genere non è lo scontro, ma è l'alleanza, per costruire un'idea che io e te insieme possiamo usare questo a servizio della nostra bellezza e non a maschera della nostra bellezza. Grazie Alberto, allora messaggio ricevuto, come si dice. Ringrazio la dottoressa Serri per essere stata con noi, ringrazio naturalmente Alberto Pellai. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo qui insieme. Oggi si celebra una giornata particolare e vorrei che portaste la vostra attenzione, la nostra attenzione, sulla giornata delle malattie rare. Essere e benessere. Oggi si celebra la giornata mondiale delle malattie rare. Rarità non significa scarsa frequenza, sono più di 6.000 le malattie rare e milioni nel mondo le persone che direttamente o indirettamente ne portano le conseguenze. Oggi siamo tutti invitati a riflettere su questi dati, dietro a cui ci sono storie di donne, di uomini, di bambini, l'impegno di medici, di ricercatori che proprio insieme, e io voglio sottolineare questa parola, ogni giorno lottano per dare ai malati, anche ai loro familiari, una vita migliore e per assicurare diagnosi più precoci e terapie più efficaci. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Domenica Taruscio, direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Dottoressa, partiamo da una definizione. Quando una malattia è considerata rara? È considerata rara quando colpisce pochi cittadini, vale a dire, proprio la definizione precisa, 5 cittadini su 10.000 nella popolazione comunitaria. Ora, questa definizione in effetti è un numero, in realtà raccoglie veramente tantissime malattie, come lei giustamente ha detto sono più di 6.000 e sono malattie che possono colpire l'infanzia, quindi i bambini, i neonati, ma anche adolescenti e adulti, non c'è il limite d'età. Abbiamo visto dal nostro registro nazionale malattie rare, queste patologie possono colpire tutte le età, molte di queste sono su base genetica, ma molti fattori ambientali possono influenzare il loro esordio. Dottoressa, quando si parla di malattie rare si deve parlare, non si può fare a meno di farlo, di farmaci orfani, sono farmaci che proprio a causa della frammentazione delle singole patologie, perché sono tante ma i numeri sono piccoli singolarmente, faticano ad incontrare anche l'interesse delle case farmaceutiche, anche l'interesse economico. Qualcosa è cambiato nel tempo? Sì, moltissimo è cambiato, sia dal punto di vista della Commissione europea, perché sin dal 2000 al 2001 ha lanciato sul settore un regolamento preciso e un comitato, che è il comitato dei farmaci orfani, che incentiva, in pratica stimola le industrie a produrre farmaci orfani e quelli che le producono appunto avranno dei vantaggi fiscali, avranno un'esclusività di mercato per almeno 10 anni su tutto il territorio europeo. A livello poi dei singoli paesi, molti paesi, incluso il nostro, hanno fatto azioni positive per stimolare l'attività, l'interesse delle industrie farmaceutiche e devo dire che anche la nostra industria è molto recettiva in questo. Quindi lei dice a livello di singolo paese e anche il nostro paese, l'Italia si sta muovendo bene in questo campo? L'Italia si sta muovendo bene, certamente ha fatto tanto e molto c'è da fare, ecco, con questo non vogliamo certamente cantare vittoria, c'è ancora moltissimo da fare. Però vorrei anche valorizzare quanto è stato fatto dalle istituzioni pubbliche, dalle realtà private, da aziende farmaceutiche, dalle associazioni dei pazienti, che sono un mondo variegato, sì, molto molto importante e che aggiunge veramente valori fondamentali per far comprendere il significato profondo di queste patologie, ma dare anche informazioni in qualità di esperti, perché i genitori, certo, dei bambini ammalati colpiti da malattie rare sono veramente molto esperti, a volte molto più dei medici. Quindi diciamo si è fatto molto in questi ultimi 10 anni nella direzione, soprattutto dopo aver migliorato le collaborazioni e sinergie fra istituzioni e i vari attori che, ripeto, pubblici e privati si sono impegnati nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani. Guardi, proprio in questo settore vorrei anche dire, per esempio, il nostro Istituto Superiore di Sanità, che è per eccellenza un istituto di ricerca scientifica, ha premiato mediante il concorso artistico letterario Il volo di Pegaso lavori artistici che bambini con patologie rare, ma anche cittadini senza patologie ma che sono coinvolti nel settore delle malattie rare in qualità di familiari o di ricercatori, di scienziati, vogliono esprimere solidarietà. Abbiamo fatto questo concorso proprio per coniugare la scienza all'arte e quindi coinvolgere insieme al più possibile più attori per far fronte e lottare queste patologie. Uniti senza frontiere, lo slogan della giornata di quest'anno, dottoressa Taruscio, è malattie rare senza frontiere, un termine che ha in questo caso una serie di significati che immagino non si limitano a quelli geografici. Assolutamente no, però quelli geografici pure sono molto importanti. Si riferisce in particolare questo slogan al fatto che le malattie rare sono poche, bisogna quindi unire i pazienti per avere per esempio numeri sufficienti per fare studi clinici, per organizzare trial clinici, per fare studi appropriati, ma non solo, ma transfrontaliero significa anche abbattere le frontiere fra un paese e l'altro, dare libera circolazione ai pazienti che vogliono curarsi in un paese piuttosto che un altro, e questo fa riferimento ad una direttiva europea che stiamo affrontando perché andrà in pratica risolto un po' il problema di come far circolare i pazienti da un paese all'altro, assicurando però anche la migliore assistenza, la migliore qualità. Dottoressa Taruscio, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che c'è un sito del Centro Nazionale Malattie Rare, quindi possono avere delle informazioni. Tra l'altro in questi giorni si stanno organizzando eventi, convegni, molte iniziative, ma l'Istituto Superiore di Sanità ha anche un numero verde. Certamente, un numero verde a cui si possono rivolgere tutti i cittadini, questo numero è gratuito, cittadini, pazienti, medici, anche giornalisti, il numero è 800 89 69 49 per avere informazione sulle malattie, su dove andare, sui sospetti diagnostici. Non facciamo diagnosi online ovviamente, ma certo, indirizziamo su dove andare per malattie rare e farmaci orfani e tutto ciò che ruota intorno a questo settore, incluse gli indirizzi delle associazioni dei pazienti e quant'altro. Dottoressa Taruscio, io la ringrazio per essere stata con noi, per il suo lavoro, per il suo impegno. Grazie, buona giornata. Altrettanto. Molte delle malattie rare hanno un esordio cutaneo. A questo tipo di malattie è dedicato un convegno all'Istituto San Gallicano di Roma. In linea con noi abbiamo il dottor Gianfranco Biolcati, direttore responsabile del centro Porfiria, proprio presso l'Istituto San Gallicano di Roma. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori. Come istituto dermatologico siamo un po' i capifila di questo tipo di patologie. Il nostro centro è nato nel 67 e abbiamo parecchie delle malattie rare che seguiamo, sono di insorgenza neonatale addirittura, per esempio il morbo di Gunther, che è molto rara, la sintomatologia insorge già con la luce che entra della nursery, per sì. Fortuna è una patologia molto rara, mentre per quanto riguarda la protoporfiria eritropoietica insorge dopo le prime fotoesposizioni, per esempio il bambino ha l'età di 3 mesi, 4 mesi, appunto con la prima fotoesposizione nelle zone fotoesposte manifesta la sintomatologia che è caratterizzata da bruciore, da cociore, e sono bambini che, non potendosi esprimere poiché sono così piccoli, l'unico modo di manifestare è il pianto proprio dovuto al prurito, che questo, al bruciore che hanno sulle zone fotoesposte. Anche il vostro congresso ha proprio l'obiettivo ed è strutturato in modo da far interagire tra loro clinici, pazienti, ricercatori, in modo che proprio da questa interazione aumenti da parte di ciascuno, immagino, la consapevolezza di quello che si sta facendo, ma anche di quello che si potrebbe fare. Il punto è che appunto faremo interagire il clinico, presenterà appunto la patologia con definizione, sintomatologia, poi ci saranno i pazienti che esporranno i loro problemi di come sono arrivati alla diagnosi, il tempo che ci hanno impiegato e cosa vorrebbero da noi clinici o ricercatori. E la terza parte, dedicato sempre alle varie patologie, la terza parte riguarderà il clinico o meglio ancora il ricercatore che presenterà gli ultimi risultati, dando appunto ai pazienti la possibilità di avere qualche speranza in più e soprattutto mostrare quelli che sono gli avanzamenti della ricerca. Dottor Biolcati, ricordiamo il messaggio della giornata, che decliniamo anche in base a quello che lei ci ha appena detto, quindi anche degli avanzamenti. La giornata, ricordo, lo slogan è malattie rare senza frontiere, quindi è proprio il lavoro di equipe che può far andare avanti nella ricerca, nella diagnosi e nella capacità di dare qualità di vita ai pazienti e ai loro familiari. Dottor Biolcati, la ringrazio, le auguro una buonissima giornata, un buon convegno. Grazie dello tempo che ci avete dedicati. Grazie a voi e per il vostro lavoro. Per oggi, cari amici, è tutto, vi saluto e vi do come sempre appuntamento a domani. Essere e benessere.